Musica, musica, elettricità statica. La sento sotto pelle, una sensazione mitica. Suona la sentina, mi fa stare da favola. È vibrazione sonica che fra le dita scivola. Danzala, muoviti, se ti trasporta sfogati. Ti lascia indifferente, allora stieniti. Ascoltala, ascolta, che sensazione storta. Ti entra dalle orecchie e ti trasporta. Non importa quale sia la tua cultura musicale, techno, dub, tendenzialmente commerciale, che sia rap, rock oppure classica, non fa differenze, comunque musica è una giostra di emozioni, sposa le ambizioni, tentatrice, la rima da lezioni, è vita nella storia che cercavi, la pelle d'oca, parole immortali, è voglia di mettermi alla prova, mi fa sentire viva e ci si innamora. Può cambiarti la vita, te la può rovinare, come una donna, ti prego, lasciami stare, non di merito, ma ti amo troppo, ti lascio andare, ma subì galoppo, quando risuona, mi viene a cercare, mi innamoro ancora, la musica mi fa volare. Dammi un suono, un semitono, e in testa già mi sento un ritmo buono. Musica. Basta una nota, a corda vuota, per iniziare un pezzo che sia una figata. Due ventenni, sei secoli fa, con una forte dipendenza dalle note e dalla rima. La musica salva chi si ostina. Musica, musica, musica della Madonna. Ci sto alla larga, ma lei ritorna. È un'amica, ma non so ascoltarla. La rima sua sorella, non so come trattarla. Prende forma dalle curve di chi mi piace, ma carezza l'anima senza lasciarmi in pace. E diventa compagnia di vita, mentre la scrivo un'altra pena è già finita. Questo è un sogno che non puoi toccare. È chiuso nel cassetto, lo porterò all'altare. E tutta la mia vita te l'ho messa in musica. Questa è la mia rima, ve lo ripete, unica. Dammi un suono, un semitono. In testa già mi sento un ritmo buono. Musica. Basta una nota, a corda vuota, per iniziare un pezzo che sia una figata. Che sia una figata. Una figata.